finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere torna nulla in cuffia, però no, ma ci dovremmo essere secondo te? Sì, che ci siamo, sento pure dalla radio. Accidenti. Tu non c'eri? No, adesso ci stai pure, penso di sì. Ma forse è successo qualcosa. Ok, poi casomai riproviamo. Mi sa che non so. Vabbè, insomma, la sostanza in questa esitazione finale Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda normale laziale, lo sapete, 25 o'clock, poi magari avremo modo un attimo di riparlare un po' della radio questa sera. Ecco, la puntata inizia così, anche perché forse è una di quelle puntate che non avremmo in realtà mai voluto fare. Con il fantasma, non negli studi, ma da remoto, anche lui. Buonasera. Abbiamo sentito prima, anche mentre ci annunciava Elettrodo, che appunto parlava di quella che sarà la puntata di mercoledì prossimo 21, che inizierà più presto del solito e che vedrà, diciamo, a noi e a Elettrodo trasmettere in qualche maniera, dispositivi Covid permettendo, in un orario diverso da quello consueto. Perché appunto dobbiamo salutare Claudia, e dicevamo, questo saluto non avremmo mai voluto farlo. È una di quelle cose come che ti arriva come una pugnalata alla schiena, una fitta dolorosa che così non ti riesci a spiegare. È una cosa che ti fa rimanere incredulo, meno quello dicevamo poc'anzi, nel senso che in qualsiasi momento ti aspetteresti che magari finito questo dannato periodo di restrizioni dovute sanitarie, diciamo, dovute al Covid. Magari tornando a girare per la città, per quei posti che sapevi dove incontrarla, appunto la vai a rincontrare, non ce ne facciamo proprio una ragione, e di quelle cose che non riesci nemmeno a metabolizzare. Comunque, insomma, Claudia, una compagna, una donna che mano a mano, così ricorderemo al nostro modo, in qualche maniera è una di quelle persone che ha fatto forse il periodo più effervescente di 25 O'Clock e Do It Yourself Invasion, per, se vogliamo rimanere, diciamo, nello stretto ambito della radio, era un periodo in cui ci frequentavamo in maniera più assidua e spesso e volentieri passava da queste parti. Ma anche perché stavo aggiungendo, insomma, anche perché poi era questa la natura di Claudia, insomma, e girare veramente, veramente ovunque, portando il suo verbo rumoroso di suoni e idee, insomma, e come era naturale incontrarla in giro, in tutti i posti che poi in tutti i posti, in alcuni anche posti. Qui i posti erano diversi, e appunto per questa sua natura di Claudia di attraversare veramente ogni posto dove si condivideva la musica, una certa attitudine. Era facile incontrarla. Non è detto, però sapevi quali erano le coordinate della città in cui l'avresti potuta incrociare. E una di queste coordinate, dicevamo appunto, era diventata anche via dei Volsci 56. Per un numero, insomma, che non ricordiamo di volte, in qualche maniera ha animato, ha portato il suo verbo, nel senso che poi era una profonda cioè gli piaceva la musica storta, dicevamo, lo racconta anche lei, suoni che non sono così scontati, regolari, c'è sempre qualcosa di sbagliato dentro, no? Che però poi diventa invece in seguito, è proprio di queste cose spesso e volentieri parlavamo, di come alle volte degli errori o delle forzature poi possano diventare invece un'attitudine nuova, un modo nuovo di esprimersi suonando. Ed erano un po' le, diciamo, le modalità più chiare, aperte, riconoscibili, con le quali comunicava in qualche modo, ma poi anche, diciamo, nell'ombra era sì, assolutamente si incrociava, ma non era assolutamente una di quelle persone che stava in mezzo a cioè appariscente, assolutamente no, stava sempre un po' a disparte, parlava con tutti e muoveva le sue, cioè aveva un altro modo di costruire, non imponendosi, ma assolutamente tessendo una serie tessendo una serie di relazioni incredibili, a volte da qualche punto di vista anche improbabili, ma questo era Claudia, una sorta di collante tra... E non per questo ne faremo la geografia, ne parlavamo poco prima, cioè abbiamo anche avuto a discutere con Claudia, ad avere opinioni divergenti. Anche da questi microfoni. Anche da questi microfoni. Soprattutto. E questo non significa che le si voglia meno bene, anzi, però è appunto che come tutte le persone che hanno vissuto sono persone che hanno avuto relazioni come devono essere le relazioni tra gli uomini e le donne e le donne, tutte le combinazioni che preferite, insomma. E noi cominciamo, abbiamo preparato la, ecco, la scaletta, tra l'altro è finita la base sotto, e no, infatti ce l'avevamo, ecco qua, cominciamo così. Ah, vabbè, a parte. Ecco, adesso vedi, è ritorno in cuffia famosa. È ritorno in cuffia utile. Allora, dicevamo, niente, avevamo detto tutto, è partito il silenzio. Questi sono il Grumo, hai fatto il tuo dovere. No, stavi raccontando di sì, che ero arrivato tardi durante questa puntata, perché quello che stiamo facendo questa sera è riproporre una puntata in cui Claudia venne a 25 o'clock e portò una sua scaletta, portò i dischetti, mi sembra, perché lei aveva gli dischetti, esatto, assolutamente, esatto. Portò i dischetti e si fece una oretta di scaletta giù di lì. E credo che questa qui sia la prima volta che lei veniva in trasmissione. Quindi era un po' una scaletta, cioè la prima scaletta da portare in radio. Sì. E ha fatto un po' una sorta di... Allora, innanzitutto ha azzeccato completamente lo stile 23 Clock, anzi l'ha migliorato, direi. Sicuramente. Nel senso che le tracce sono tiratissime, sono una appresso all'altra, rispondono perfettamente. Io credo che ci ascoltasse, non lo so. Perché entrò a gamba tesa, cioè insomma, un contrasto proprio spettacolare. Si è venuta preparata, ma insomma. E poi, no, ricollego il fatto di prima che quando dicevo che agiva anche nell'ombra, nel senso che poi le scalette ha continuato a mandarle anche durante l'inizio Self Invasion. Contribuiva insomma a farmi scoprire anche i gruppi che se altrimenti non avresti mai scoperto, perché proprio andavo a cercare ste robe sorprendenti come questi Grumo. E che altro volevo dire? Sì, che vabbè, siccome è composta, quindi manderemo questa parte sicuramente iniziale in cui ci alterneremo con qualche chiacchiere e soprattutto con molta più precisione di come lo fece lei. Comunque le puntate le potete ritrovare sui podcast della radio, e poi alla fine invece manderemo quella che fu proprio un regalo che ci fece, cioè che venne a suonare, a fare un suo live set disturbatissimo, che sentiremo poi a fine puntata integralmente, dura circa una mezz'ora. Ne parliamo poi più avanti su alcune suggestioni che ci sono rimaste da quel live lì. Ho perso un po' i tre requisiti per la radio, scusate. Allora il prossimo pezzo, vabbè, Amici dalla Palude. Loro sono i Godzilla, responsabili del malessere di tanti fegati tra Roma e provincia. Godzilla, sì. Giro del virus, proprio, l'hanno fatti più loro dei danni. Penso che i Godzilla hanno fatto peggio del Covid. Con tutto rispetto. E soprattutto a livello di fegato. Godzilla e le tre bambine coi baffi, dalla Palude Pontina, Sei solo. Vita qui non c'è, è il tuo Dio adesso, dimmi se bomba do bomba do bom bom bom. Show, show, show. Quero falar com Zucca. Voglio parlare con Zucca. A Rio e diventare prende il caffè vale il virio. Quando vanno con i piedi sono i piedi di Dio. Io voglio Zucca a Rio. Giro bombo, giro bombo, giro bombo, bom, bom. Quando dicevamo appunto che era completamente, anzi a me, cioè, vabbè, sarà un ripercorrere appunto, poi dicevi te quanto ha potuto con le sue alterazioni, i suoi giochetti fatti con i vari effetti sul pavimento, microfonini suonati a proposito. E quanto invece poi appunto poi queste cose piano piano entrano, alcune cose già le ascoltavamo, altre cose ci è piaciuto, no non era quello. Ups. Accidenti, è un errore in diretta e vabbè, è passato, insomma, abbiamo ascoltato X-Mary Zucca per dire appunto che si era sintonizzata perfettamente con il clima fulminato che c'era. E penso che gli X-Mary Zucca, cioè questo pezzo lo poteva passare solo lei. Io non. Sì. Vabbè, dai, ci proviamo a ripercorrere queste tappe, anche a rientrare un po' nel pensiero di quella serata, di quel giorno passato, di quella serata passata insieme. Che ci abbiamo prossimamente in scaletta? Forse cambiamo genere. No, adesso ce li ascoltiamo, ce li ascoltiamo. Laghetto, dai, ce li ascoltiamo. Allora, da capo. Laghetto, beh, un gruppo al quale sicuramente era molto legata Claudia, e dal quale poi evolveranno in qualche modo i Marnero, ed ritorna un bacino acquatico. Laghetto. Quindi Laghetto e Marnero, Laghetto, questa è Avril Lavigne. We'll be right back. questo l'avevamo detto. L'abbiamo detto, Mar Nero, questo è sempre un altro amore di Claudia. Ricordo un concerto visto insieme in quella di Perugia, al concerto di chiusura dell'ex mattatoio, e l'ultima iniziativa fu un concerto pieno di grupponi, uno di questi era di Mar Nero, eccezionale. Ora ci ascoltiamo da capo, questa è la loro Il porto delle illusioni. We'll be right back. piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla, per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info. Oh, vedi, dicevamo i suoni e dicevamo pure, niente, volevo fare un paragone con i cristiani, però una cosa un po' più penosa, perché poi non vai, pensavo, no, Claudio, no, era sì, abbastanza infernale. Sì, no, perché a un certo punto c'erano, penso che fossero i paleocristiani, no, che dice dove è la chiesa? La chiesa è ovunque ci siamo noi, una cosa del genere, okay. Dicevano. E il parallelo è ardito, è un paragone del cazzo, l'avevamo proprio così di parte già all'epoca. Sì, no, già all'epoca, proprio stasera, cioè poc'anzi. Posso fare un paragone del cazzo. E 25 o'clock è ovunque ci sia questo tipo di suoni qua che stiamo ascoltando anche sotto la nostra voce. Cioè, vorresti dire che siamo una sorta meglio. Siamo una sorta di paleocristiani dell'etere, volevi dire? No, nel senso, sì, no, c'è qualche cosa di catacombale in tutto questo, insomma, qualcosa che va ascoltato anche. Sì. Anche lo stesso circolo, no? Il Dal Verme, certo. In realtà ricordava una sorta di cripta del rumore, di catacomba sotterranea dove appunto puoi andare ad ascoltare questi suoni che hanno molto poco di religioso nel senso edificante del termine, ma c'è appunto una musica da ipogeo, una spiritualità piuttosto, se proprio la devono esprimere, piuttosto demoniaca. Allora, sotto le nostre voci va Crapula, Juggernaut. Dicevamo anche che praticamente la scaletta l'abbiamo ripercorsa tutta, salvo no, una traccia che si chiamava. C'era una traccia. Allora, siamo andati a ripescare questa trasmissione che abbiamo fatto qualche tempo fa. E c'era la scaletta pubblicata. marzo 2015. E una di queste tracce era Mastello, The Shorinator of Death. E allora qui il buon Fefo dice, ma qual è questo pezzo? Non lo trovo, ma com'è possibile Mastello, The Shorinator of Death? Io praticamente io non ricordavo la trasmissione, però a un certo punto Mastello è un altro, sì, è un altro come dire, poi dice, ma che Mastello suona? Ma non mi ha suonato, no, invece sì, suona, però in questa versione The Shorinator of Death, perché conosciamo tutti quanti il problema di Mastello, che di salute, che è l'essere logorroico, quindi The Shorinator of Death. Vabbè, quello non lo ascolterete. No, ve la risparmiamo. Invece non vi risparmiamo Juggernaut, Crapula, la mandiamo da capo dalla selezione che fece Claudia appunto nel 2015, penso a boh, non si capisce dalla data. Dai. ricerca di un oggetto. Mi perdevo nella smania, cominciavo la ricerca da un cassetto, perquisivo uno stipetto, sollevavo un foglio, un libro, un piatto, cercavo in alto, sull'armadio a tatto. Non mi arrendevo al fatto che il mio ordine perfetto fosse incrinato da un microscopico dettaglio. Quindi scollavo profili e stipiti, spostavo i mobili, rivoltavo zaini e tracciavo dei tragitti che all'origine hanno i buchi nelle tasche dei vestiti. Investigavo i posti più improbabili, come le travi del tetto, i davanzali, i flaconi di prodotti vuoti o pieni, le pagine dei libri, qualsiasi luogo dove quell'oggetto sarebbe potuto essere stato messo. Avevo quell'atteggiamento maniacale di chi non vuole più pensarci, ma sotto sotto continua a cercare qualcosa in modo indefesso. E poi Dio, la consecutio temporum, mi sveglio, resto diversi minuti nel letto con un occhio aperto ed anche l'altro, una contrazione dello stomaco, un lieve peso sullo sterno. Quando faccio un sogno lo conservo, lo ripercorro appena sveglio, poi me lo segno sul quaderno, così ricordo. Quindi mi accorgo che tra le tasche, i mobili, gli stipiti, l'unico dettaglio del sogno in grado di confondermi, di impietarmi, di contrarmi gli organi, è il non sapere cosa io stessi cercando. Mi alzo, penso a cose pratiche, ai discorsi di persone antipatiche che mi direbbero che è solo un sogno, ignorando che è la mia testa ad averlo prodotto, e che ricordarselo e capirlo aiuta a rafforzare il rapporto con l'inconscio. Rimango immerso nelle immagini, i miei gesti automatici mi consentono la colazione, apro le ante, ingredienti e tasse, pane a fette, marmellate, uova rotte, esco di casa, chiudo le porte, ho delle liste di cose da fare, annotate in maniera maniacale sopra lastre di carta quadrettate. Devo entrare in un negozio per comprare materiale elettrico, quindi mi dirigo, arrivo, accedo all'esercizio, spingo la porta, mi accorgo che il sogno di ricerca non ha ancora abbandonato la mia testa. Ho un'espressione assorta, sono visibilmente turbato, il commesso mi guarda, io cerco fra gli scaffali un articolo che mi sono commissionato. Il mio atteggiamento pensieroso, distaccato, mi classifica agli occhi del negoziante come qualcuno che potrebbe aver rubato. Mi guardo attorno, mi sento osservato, forse mi sbaglio, forse me lo sto immaginando, è un disastro, faccio il disinvolto, cerco di stare attento a quanto sto fermo, a quando faccio un movimento, tanto che all'esterno, negoziante e commesso hanno la certezza che mi sia messo in tasca qualcosa, forse un tassello, un attrezzo, mezzo metro di cavo elettrico, un tubo di silicone che renda il mio pensiero ermetico. Siamo al punto che ogni mio gesto alimenta il sentimento del sospetto, ed ogni sguardo alimenta una certezza, lo spettro della completezza. Arrivo al punto di bramare la sapienza su cosa un'altra persona pensi. Se scappassi adesso dal negozio sarei un ladro in ogni caso, che io abbia ragione o che mi sia sbagliato. Ci vuole un piano, qualcosa di contorto e articolato, che mi liberi dalle supposizioni, che distrugga i dubbi di commessi e negoziatori. Mi presento alla cassa e pago, iniziando il mio discorso. Voi credete che io sia un ladro? Perquisitemi, cancellate il mio reato. Questi mi squadrano, riluttanti eseguono, mi spulciano, non trovano, si scusano. Allora avevo indovinato, mi piace indovinare, mi piace che gli altri non indovinino. Saluto pacifico i due uomini che mi salutano, mentre esco, mentre non mi vedono, punisco la loro sfiducia rubando un articolo, un condensatore molto piccolo. Torno a casa e penso subito a dove nasconderlo, dietro un mobile, nel cassetto del tavolo, dentro uno zaino, nell'armadio no. Ci vuole un posto più subdolo, tipo sotto l'intonaco, in modo che quando passo nei pressi di quella parte di parete io sappia perfettamente perché faccio certi sogni e perché la gente nei miei confronti tiene certi comportamenti. Un po' di vuoto, abbiamo andato un po' di vuoto. Però al di là del vuoto che al solito rompe poi le magie che si creano, e quindi bisogna andare a riacchiappare, stavamo apprezzando la selezione di Antazio, brava Claudia, bisogna dirlo a posteriori. Comunque in perfetta sintonia, almeno col sottoscritto, walkie talkie con le loro tastierine acide e questo eloquire così che in realtà ha senso, ma probabilmente dipende dallo stato mentale in cui uno sta, perché potrebbero essere anche delle parole di cui si colgono solamente dei frammenti di periodo. Ritorniamo al concetto distorto di prima, magari se stai storto, assolutamente, le frequenze storte, le informazioni storte arrivano dritte. Storte e distorte, sì. Quindi abbiamo ascoltato in Juggernaut, l'avevamo detto, adesso ci poi Walkie Talkie e poi adesso ci sta Faget Up Voice Gerda, che pure qui è una strana coincidenza che lasciamo cadere, e poi dopo avremo, credo, la Furia. No, questa notte inizio, dove la città precipita a picco su un precipizio. Un'altra stagione morta in questa città natale, e una voce in testa dice: dove cazzo pensi di scappare? Sì, mi gioco il tutto per tutto, tolgo i disturbi, rilancio il doppio full di teschi nelle slot e bar notturni. Non voglio perdermi, tu vienimi a cercare fra i detriti, tra le bottiglie rotte e i sogni infranti dei falliti. Le auto in panne su autostrade perdute senza benzina, cercate salvezza, la carezza amara di mamma eroina. Lucciole brillano sul corso, sotto un cielo blu notte, come i lividi che portano sul dorso. Rotz mi riempie il bicchiere col vino rosso, lui si gode queste stelle, mezzo svenuto in fondo ad un fosso. Io rosso, la mia città non mama. Io sì, ma lei non chiama. Mi tira al pacco anche stanotte, fa la gran puttana. Mi vende a chiappa sogni dalla bancarella indiana. E alcolizzata noia in ogni fine settimana. È royal, la notte nei putan tour. Tra chi leva via l'odore di troia con l'ambipur. Non ne posso più, è quando il silenzio parla che alla fine tutto il resto si calma. La mia alma insegue l'alba sotto gli alberi spogli. La mia vista insegue l'acqua nera sotto gli scogli. Le notizie dei partiti per la city con le quali mi invogli. Ma sto deserto dal cuore non me lo togli. Io amo le spiagge grigie, odio la vita provinciale. In fondo amo le notti al mare, odio il vento che le dirige. Se non ci stai non credi e non vedi se non ci vivi. Per ogni turista che viene a cagarmi il cazzo nei mesi non sai dove ti porta, la piena luce al neon questa volta. Tra i pensieri, le parole, i bicchieri, le piazze vuote ascolta. Il silenzio, il senso che trovi in fondo ai mozziconi. Le case blindate, i lampioni che fanno luce su noi disperati in giro. Persi nei viaggi, nei discorsi da capogiro. Fai un tiro, poi saluta chi ti sta vicino. Per chiudere gli occhi al primo mattino. Restano solo note vuote sulla partitura. Un giorno perde la voce, ora è la notte che scrive la sua andatura. Poche parole mentre il sole scende su di me. Buio atroce ed è subito solitudine. Il vespro e le bisensi toglie ombre, confonde i contorni. Abbraccia la città da dentro ai dintorni. Non lo vedrai se dormi, ma se lo vedi ascolterai i discorsi dei matti che incontri. Per le vie, per la strada, per chi sta in stazione, per chi sogna, chi cammina senza direzione, per chi fuma seduto su una panchina, chi fa mattina, chi questa notte cerca adrenalina. Sono lacrime da ubriaco mentre penso alle parole che mi hai spiccicato. Dentro un altro giorno che vivo strozzato. E non mi passa perché non mi passa più da mesi. Per me la realtà, per voi il regno degli incompresi. Sono domande troppo spesso che non trovano la risposta. Mostra solo un lato pulito per legge imposta. Dai vicoli giù in piazza, vecchi volti, nuove offese. Sorrisi al silicone appena fuori dalle chiese. Vede cosa succede, non mente in 24 ore. Prima nere parti mentre giocano al dottore. Vede chi sta nel vizio nelle notti brave, ma chiude un occhio delle volte. Purtroppo non può parlare. Sa chi vive nel torto e dà conforto, nessun alibi. Lei che si fa dipingere nei posti più improbabili. Chi c'è cresciuto, chi nato dai suoi dintorni. Osserva se la lasci, sa che poi ritorni pronti. In sto rapporto conflitto di odio amore. Non mi bastano le parole, troppi viaggi, nuove storie. Nella notte che ci inghiotta il suo rumore. C'è chi dorme, chi fa botte mentre un altro giorno non muore. Porta, la piena luce al neon questa volta. Tra i pensieri, le parole, i bicchieri, le piazze vuote ascolta. Il silenzio, il senso che trovi in fondo ai mozziconi. Le case blindate, i lampioni che fanno luce su noi disperati in giro. Persi nei viaggi, nei discorsi da capogiro. Fai un tiro, poi saluta chi ti sta vicino. Per chiudere gli occhi al primo mattino. Poi vabbè, proseguendo con questa scaletta emergono ricordi. Questo non era un pezzo scelto da Claudia, ma Notturni da scommando. Dovuto, come? Notturni da scommando. Esatto. Questo è dovuto a un'incursione del baffo più hardcore della Torino hardcore. Sì, quello che è pure un'altra diciamo animo oscura che sta dietro le quinte e manovra instancabilmente, o forse comincia a stancare pure lui. Ma neanche tanto scuro poi. No. Allohorn, Beast on the Field. We'll be right back. Allora, non avevamo detto nulla già dall'inizio della trasmissione riguardo un po' le coordinate di quello che state ascoltando. Avevamo dato per scontate tante cose. Allora, innanzitutto siete all'ascolto degli 87.9 della banda romana e laziale, Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock, www.ondarossa.info, il sito della radio, dove ci trovate tutto, quello che vi può servire. Ci trovate la cartella, il tasto sostieni, dove ci sta una paginetta che indica la modalità per tenere in vita questa radio, che come sapete non fa pubblicità e non c'ha padrini né padroni politici, e per questo ricorre alla sottoscrizione autogestita di noi tutti e voi tutti e tutto. Dunque, www.ondarossa.info l'abbiamo detto, 06491750 il capitolo telefonico, 6184001 il numero del conto corrente postale da intestare a cooperativa culturale laboratorio 2001, via dei Corsi 56 00185, Roma San Lollo. Hai visto, ci siamo ritornati, e nient'altro di più. ondarossa@ondarossa.info la mail, 25o'clock@ondarossa.info per lo spazio che state ascoltando. Dunque, dicevamo, che cosa stiamo mandando questa sera? Stiamo mandando in maniera più o meno integrale una scaletta che propose lei proprio per una 25 o'clock di febbraio 2015. Chi era Claudia? Vogliamo un attimo ripeterlo. Claudia sicuramente era un'anima attiva dell'underground romano. La cosa più difficile poi in realtà descrivere sì, dei termini tecnici quasi a chi non conoscesse Claudia. Claudia era la persona che trovavi ovunque, che trovavi al suo locale, la trovavi al centro sociale a organizzare il festival hardcore. La trovavi magari invece con la sua strumentazione in qualche sotterraneo del forte, magari a fare. O la trovavi in altri concerti, in altre iniziative, sempre a dare una mano sotto al palco, perché comunque aveva l'occhio clinico. Ricordavi pure te quanto appunto in tante occasioni, come appunto si sostiene la radio e come si sostiene in silenzio. Tante volte Claudia mancava cruciale. Nei momenti dove magari già che ne so, il Service X ci aveva detto che non c'aveva i pezzi, oppure costava troppo e non c'avevamo una lira, cioè in situazioni di questo tutto genere, assolutamente, appunto, senza andare a non esisteva proprio per lei, era Vietà a prendere, a riportare a posto. Una collaborazione che così era proprio come doveva essere, profondamente convinta di questo modo di procedere. E così, semplicemente per tutti, si comportava così con tutti quanti. Avrete sentito qualche giorno fa, molti di voi, appunto, per dire semplicemente le circostanze, ma appunto voi ormai nel mondo della comunicazione mediatica sapete molto di più di noi dei social e di questa comunicazione immediata. Anzi, un incidente sui Monti Lepini, quelle montagne che stanno a sud di Roma, nei Monti Volsci, e così, e anche questo qui ancora più una coltellata proprio per me, anche nella nostra condivisa passione per la montagna, ci ha dovuto così lasciare. Anche parlando di montagna, insomma, era una compagna di escursioni anche, semplicemente. E tante ne abbiamo fatte insieme, e si era innamorata dei Monti Lepini, anche perché io la leggo pure così, perché poi è stata una persona che era molto vicina a tutta la scena hardcore trappaliano, Colleferro, Montelanico, quindi naturalmente poi alla cui scena ovviamente non manchiamo di dare un abbraccio, un abbraccio saluto, soprattutto in questo momento. E quindi quelli erano i monti vicino agli amici, no? E sono i monti che ha conosciuto di più, i monti che amava e che frequentava settimanalmente. Era dove lei andava. Stava fissa. E ha avuto un incidente, adesso le ricostruzioni, sì, attraverso i giornali sono state tante e diverse, non mi sento di poter aggiungere nulla. Comunque è una grande sfiga, insomma. Una serie di sfighe che molte volte sono quelle che sono fatali proprio in queste circostanze. Poi insomma la ricostruzione in atto questi giorni. E... non aggiungiamo altro perché poi ha anche poca importanza rispetto, insomma, appunto alla coltellata che abbiamo ricevuto. Quindi lasciamo Holohorn, Best in the Fire, Beast in the Field. Holohorn, Beast in the Field. Grazie. E selezionato da Claudia per passare un'altra selezione. Sempre amici, sempre amici in comune. Era il primo disco, questo qua. Abbiamo pensato pure mandiamo il suo, no. Aspettiamo invece alla fine, pedissequamente, quanto Claudia quella sera ci aveva raccontato. Quindi, consuma la furia. Sono ingozzato di sorrisi, sogni di plastica, vetrine, voglie imposte con la frusta della comunicazione. Siamo corrosi dentro dalla voglia di avere un altro oggetto, ancora un altro per esistere e non scomparire. Repressione silenziosa perché hanno capito che è meglio un telecomando a moschetto puntato. Non è un romanzo di Orwell, è molto peggio, pensi di essere libero, sei lo schiavo perfetto. Muori seppellito tra le rate di una macchina sportiva, sgomitando nella merda per raggiungere un benessere dettato da chi vuole poi rivenderlo. Una massa di consumatori ignari come agnelli sul patibolo. Consuma tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma una città vetrina per specchiare il senso di una vita. Appressa cose inutili finché non è finita. Soffocato da bisogni che ti hanno imposto. Scegli pure il tuo sogno e poi dai un costo. Scaffali pieni nei supermercati. E cuori freddi, cosa siete diventati? Siete tutti benvenuti, basta che consumiate. Socialità, pagamento, divertimento a rati. Liberi di scegliere marca e colore. Liberi di scegliere da chi farvi sfruttare. Io tengo vivo il senso di sorrisi e lacrime. Giravo tutto coperto dentro l'era dell'immagine. Consuma tutto quello che vuoi e tutto quel che non hai. Consuma quello che hai prima o poi ti possiedi. Tutto quello che hai prima o poi ti possiedi. Ti possiedi. Thank you. ritorniamo in voce per chiudere questa scaletta, quello che ci accompagnerà in queste ultime note che daremo. Profumia, io streamer Octis, sempre alla fine appunto di questa scaletta che preparò Claudia per il febbraio 2015 per 25 o'clock, quindi La Furia, Consuma, poi Kalashnikov Collective, Fista in Alto dice questa è pace, questa è guerra, e poi appunto Squadra Omega, pezzone che avete ascoltato per un po' di tempo sotto la nostra voce, vabbè adesso stiamo proprio zagaiando, e Squadra Omega avviso agli imprudenti, sempre questa è la selezione di Claudia, e siamo arrivati alla, più o meno alla fine, così un po' di ringraziamenti a chi ci aiuta e ci aiuterà in queste giornate. Allora volevo ringraziare anche Radio Sonar, come è accaduto un po' in questi giorni, tanti amici si sono stretti tra loro per cercare calore contro questo certo, gelo che si è andato un po' certo, insinuando tra tutti quanti, e questo è avvenuto anche tra radio Radio Sonar ha raccolto dei clip audio in questi giorni, lo stiamo facendo anche noi, tra l'altro questo finalizzato a cosa? Allora, mercoledì prossimo abbiamo pensato di dedicare uno spazio appunto ai saluti per Claudia, e un po' più collettivi ovviamente, un po' di più quello collettivi, che può quindi essere qui da remoto, insomma. Esatto, da remoto, insomma, non abbiamo potuto prendere telefonate o sentire voi direttamente, e quindi avevamo pensato di ritagliare uno spazio mercoledì prossimo dalle ore 20 per mandare dei vostri clip audio, quindi se volete mandare un saluto, un pensiero per Claudia, potete farlo inviando un clip audio a questo indirizzo fantasma@ondarossa.info, e noi monteremo tutto quello che possiamo ricevere e lo trasmetteremo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo alle 8, per un'oretta e mezza sicuramente ci saranno queste cose, poi lasceremo pure Elettrodo il suo delirio serale, che comunque appunto. No, mi ricollegavo a Radio Sonar, sì, perché trasmetteremo certo, anche quanto hanno ricevuto da Radio Sonar, pure insomma si è dato da fare, e ci passerà appunto esatto, parte del materiale che ha ricevuto. Quindi un grazie a Giulio e al programma Search and Destroy su Radio Sonar, un che abbraccio. È un vecchio programma di Onda Rossa. Esatto, esatto, vedi come tutto torna. Tutto è circolare. E poi c'era pure qualcun altro che volevamo ringraziare, se non sbaglio. Assolutamente sì. Un abbraccio stridoloso a Marta, sì, sì, speriamo di beccarci Marta presto. Marta che ci aveva ospitato nel farlo sì, nello spazio della Schiena del Sol, che ringraziamo, poi insomma una serie di ragionamenti che abbiamo fatto, anche proprio di impedimenti fisici con turni lavorativi eccetera, esatto, ci hanno fatto individuare quello spazio di mercoledì prossimo dalle 20 in poi per fare questa cosa. Ora, cosa mandiamo fra poco? Dunque, l'avevamo un po' spiegato prima, si tratta di un live che fece Claudia come Cassandra, vediamo se ritroviamo anche la data della, così tanto per essere completi, sulla descrizione. Cassandra Live 7 è 5 anni e 10 mesi fa, sono passati, era di giovedì 5 marzo 2020. Sempre in primavera, venne con tutta la sua attrezzatura che nemmeno è possibile ricordare. Ma io ricordo delle grattugie Sì. Ricordo dei microfoni a contatto, dei microfoni che applicava ovunque, parti gutturali, che potevano produrre vibrazioni. Esatto, per vibrazioni gutturali. E poi c'aveva una chitarrina acustica quasi da bambini, insomma, molto carina. Che torturava con una grattugia, sì, cioè sì. Non è che non per suonarla. Un insieme di microfoni, di effetti, di cavi. Penso è stato curioso vederla, cioè vestirsi di cose. Sì. E poi quanto ci ha messo poi a mettere a posto? Perché poi ogni cosa aveva la sua scatolina, sì, dedicata. Sì. Aveva la scatolina per le grattugine. Sì. Cioè, io una bella emozione. Dicevamo, scrivevamo così, per stomaci forti, orecchie allenate, però venite dopo 25 o'clock e soprattutto dopo prove tecniche di emissione, non avete nessuna difficoltà ad ascoltare questa Cassandra Live a Roar del 5 marzo del 2015. Fra qualche secondo, mezz'oretta, ve la lasciamo tutta. Thank you. E ci siamo, quindi torniamo in onda con la voce. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, 1:09 superati. Abbiamo ascoltato la mezz'ora, che tra l'altro avevamo contrattualizzato, diciamo, tra virgolette. Ah, sì? Sì, perché... avevamo dato un limite, esatto, di tempo. Esatto, almeno. Abbiamo detto, guarda, facciamo una mezz'oretta, perché dopo, cioè, noi iniziamo alle 10.40, così appena finita la prove tecniche, cercando di stare il più compatto possibile, però per non mandare suoni che sono... veramente alti gli amplificatori dentro una stanzetta di qualche metro quadro in un condominio, poi in un condominio vibrava tutto, per cui alle 11:10, 11:20 dovevamo, insomma, chiudere il live. Vabbè, più o meno per questa sera abbiamo detto tutto, se non che rinviarvi invece alla prossima, il prossimo mercoledì, che come già annunciato inizieremo prima, e stiamo raccogliendo, lo abbiamo detto già prima, dei clip audio per che riguardino appunto la, il ricordo che collettivo che vogliamo compiere, e l'indirizzo è fantasma. fantasma@ondarossa.info. Prepareremo montaggio. Sta già girando pure, insomma, sui vari sporchissimi social e detestatissimi social, comunque anche questa nostra iniziativa di Radio Onda Rossa, di 25 o'clock, di Do It Yourself Invasion, di tutte quelle cose che si sono un po' scavalcate l'un l'altra, attraversate. Ci fa piacere che ci sia anche Elettrodo, perché poi i suoni di Cassandra, come avete potuto sentire, non sono tanto difformi dalle amenità che ama il nostro buon Elettrodo e le sue due trasmissioni. Ci sarà forse anche la trasmissione di musica classica di Onda Rossa. Mamma mia, no, non posso non Allegro con Fuoco. Ci sarà forse anche Allegro con Fuoco, sì, di Garba, che comunque anche lui non disdegna poi la musica cacofonica, insomma, alcune avanguardie della classica, insomma, che in alcuni momenti ci potevano anche ricordare appunto questo strano lavoro che faceva Cassandra Claudia con tutta quella roba che vi abbiamo sopradescritto. Vabbè, quindi ci siamo, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, www.ondarossa.info il sito, 0649750 recapito telefonico, ricordatevi di sottoscrivere per questa emittente e continuare a fare in modo che possa trasmettere ancora per molto tempo, per tanto tanto tempo, nell'etere e nel web. E il nostro saluto più importante va ovviamente a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutti i centri di detenzione per migranti, chi è costretto a varie forme di diciamo detenzione o decreti amministrativi che ne limitano la libertà di movimento, pure i compagni e le compagne a cui sono arrivate recentemente degli avvisi di garanzia, insomma, abbastanza così assurdi e completamente fuori ogni logica anche giudiziaria, insomma, fine unico, nemmeno persecutorio, date un po' fastidio, insomma. Ne vale un abbraccio quindi a tutti quanti, noi ci sentiamo mercoledì prossimo e bella così. Un abbraccio a tutti e a tutte, buonanotte. begin to